Ci trasferiamo in Olanda, Mosquita de Miramare che ci sta ascoltando da Harlem. A Ivrea, Bruno Cossano, lo salutiamo, lui e il suo spazio Plankton, Radio Spazio Ivrea ogni martedì sera. Poi in Sicilia c'è Jessica. Abbiamo anche Eugene Vintras del progetto Ginny a Venezia, Enrico Ponzoni di Sokon Shibutsu Project. Noi invece iniziamo andandoci un po' ad occupare delle cose che accadono in casa Nesplay Sounds, etichetta che tutti sapranno, fondata da Raffaele Pezzella a Napoli. Tanti musicisti di ogni continente, ma anche l'Italia chiaramente, viene analizzata da Pezzella. È il caso di questo artista a 360 gradi, attore, sceneggiatore e musicista, Mario Lino Stancati, al suo secondo lavoro dal nome Vairagya, ricordo termine mutuato dal sanscrito e che significa distacco. Oscuri tappeti ambient, ma anche soluzioni interessanti, sperimentali ed elettroniche, che andiamo ad apprezzare con la terza traccia dal nome Panta Sekina e la quarta Non smettere mai. minuti iniziali li abbiamo dedicati a Mario Lino Stancati, il fascino arcano contenuto in questo Vairagya, una delle migliori uscite di questo 2022 e soprattutto della Next Play Sounds. Un vero e proprio viaggio siderale, cosmico, e i risvolti sono chiaramente rivolti anche alla cultura e alla musica kraut degli anni 70, appunto i Corrieri Cosmici che tutti noi abbiamo apprezzato in passato, i Tangerine Dream, eccetera, eccetera. La seconda traccia invece, Non smettere mai, era più scansionata, più elettronica. Si sono aggiunti intanto Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster. Un saluto anche a Naresh Ran e Nicola Loci, appunto, lo vado a risalutare. Vairagya ce lo ascolteremo naturalmente anche la prossima settimana. Altre due tracce. Adesso la andiamo dai nostri amici Laibach, che ci deliziano sempre con ottimi lavori, li ricordiamo, come tutti sapranno, in attività da più di 40 anni. Ovviamente cambi di formazione abbastanza di frequente. Siamo giunti a Wir sind das Volk, ein Musical aus Deutschland, e come recita il titolo, vero e proprio musical dedicato alla storia della Germania, con apporti di Heiner Müller e Bertolt Brecht a livello di testi. È il turno di Ich war die Wunde, Das Lied von Eisamen Manken, quest'ultima dal vivo, e anche una parte della tredicesima traccia, anche questa dal vivo, In Sterb, In Erbsstarb, una parte perché è una lunga traccia di 13 minuti, e la seconda parte di quest'ultima, di quest'ultimo brano, ce l'ascolteremo mercoledì prossimo. bevor sie es zerbrach und hatte eine Sehnsucht und wusste nicht wonach, weil sie einsam war und so blond ihr Haar und ihr Mund so rot wie Wein. Doch wer von diesem Wein trank, konnte nie mehr glücklich sein. Tralala, tralala, tralala. Doch einer sprach im Frühling, auch du fühlst Lust und Schmerz, und brach ihr tausend Rosen, doch sie brach nur sein Herz, weil sie einsam war und so blond ihr Haar und ihr Mund so rot wie Wein. Doch keine konnte so küssen und doch so einsam sein. Tralalea, tralalea, tralalea, tralalea. Was blieb von ihrem Leben? Ein Lied, das niemand sang. St. Peter ließ sie warten, zwei Ewigkeiten lang, weil sie einsam war und so blond ihr Haar und ihr Herz so tot wie Stein. Dann sprach er: armes Kind, komm, soll's nie mehr einsam sein. Tralalea, tralalea, tralalea, tralalala. Selbst ist ein schwarzes Loch, als ob sich ein Grab über mir geschlossen hätte. Jetzt weiß ich, was mit ihm gestorben war, war das Gespenst meiner Kindheit mit den schreckgeweiteten Augen, dem vom Weinen verzogenen Mund, dem gefrorenen Salz meiner Tränen. Mein Vater hatte von mir geträumt, als er im Lager war, einer winzigen Gestalt auf einem Berghang, eine zu schwere Last auf zu schmalem Rücken, so wie ich von ihm geträumt hatte und im Traum nicht verstand, dass er nicht über den Lagerzaun sprang. Seitdem ist meine Kindheit nur noch Erinnerung an Erdbeeren, die eine katholische Schwester uns ans Bett brachte. An die Verhaftung meines Vaters im Morgengrauen, die Männer in Uniform der SA größer als er, die ihn schlugen. Ich sah es durch das Schlüsselloch der Tür zu meinem Zimmer und stellte mich schlafend, als er sich von mir verabschieden wollte. Und die Schritte auf dem Kies vor der Haustür, die sich entfernten, die Stille im leeren Haus, bis meine Mutter zurückkam. Ihr Gesicht leer, ohne Tränen. An den Besuch im Konzentrationslager auf einem Bergkegel, weit genug von der nächsten Ortschaft. Kein Wegschild zeigte die Richtung, auf der Anhöhe kein Baum. An die Gesichter meiner Spielkameraden, Kälte und Neugier, als sie mir die Mitteilung machten, dass sie nicht mehr mit mir spielen durften. An das Treffen nach seiner Entlassung aus dem Lager, auf der Landstraße vor dem Dorf, das wir nicht mehr betreten durften. Schnee fiel, meine Mutter hatte ihm einen Mantel gebracht, seine fahrigen Gesten, als er den Mantel anzog, sein Zögern, bevor er von uns wegging, gebückt unter dem Mantel. Wir winkten ihm nach, bis er ein Punkt im Schneetreiben war. An das betäubende Glücksgefühl am Ende der Schulferien, die ich bei den Großeltern verbracht hatte, als meine Mutter am Gartentor stand und ich in ihre Umarmung lief. An Tiere, Hunde von Bauern hinter uns hergehetzt, weil wir in ihrem Obstgarten gewildert hatten. Die Pferde, mit denen ein Bauer uns in den Hof gesperrt hatte. Wir standen zitternd an die Wand gepresst. Die Pferde galoppierten panisch im Kreis. Wer sind das Volk? Ultimo lavoro per gli sloveni Laibach a dispetto del tedesco. Peraltro spesso usato nelle loro opere anche del passato. Gesichter vor Auschwitz. Un forte potere evocativo che ha la musica Laibach, esplicato anche in maniera diversa in queste tre tracce. Bellissima anche la traccia dove il pianoforte dettava i tempi, molto cabarettistica e molto Marlene Dietrich per certi aspetti. Saluto anche Patricia in Emilia Romagna e Wurnus Island, la storia industrial del Piemonte. Abbiamo anche con molto piacere Like Awake Stefano Di Serio qui a Roma. E a Roma arriviamo da un'altra eminenza grigia che risponde al nome di Nim, Giuseppe Verticchio, che saluto nel caso sia all'ascolto. E di lui siamo andati a riprendere un album del 2019 dal nome Beyond the Crime Era. E si apre proprio con This Crying Era. Mit der Übersiedlung meiner Eltern nach Mecklenburg 1939 begann ein anderes Exil. Ich war Ausländer, wie in Mecklenburg damals jeder, der dort nicht geboren war. Der Ausländer steht auf dem Schulhof allein. E sono stati degli stratagemmi sonori assai variabili in questa prima traccia che andava ad aprire Beyond the Crown Era. Traccia che portava proprio il nome, This Crown Era, iniziava con un vero e proprio vento sonico confinante con il noise, per andarsi a concludere invece con un tappeto quasi ambient IDM. Esattamente come dice Like a Wick, ottimo accostamento tra noise e suoni più armonici. Il tutto NIM, appunto, Giuseppe Verticchio, qui da Roma, che vado a salutare. Una ventennale carriera costellata da molti, molti lavori, sia come NIM, sia attraverso i suoi molteplici progetti collaterali. Anche lui NIM, ce lo ascolteremo la prossima settimana. Intanto buonasera a Valerio Michetti della Grazia Obliqua ed Alessandra che ci sta ascoltando una mentana. Adesso andiamo in Israele, una terra che in maniera insospettabile contiene veri e propri talenti nell'ambito elettronico, sperimentale e neofolk. E nel sottobosco di laggiù ci ascoltiamo questi Kashayov, un album, l'ultimo di quest'anno, se non erro, dal nome M.A. Estraiamo Kol Ashavur e Loa. Thank you. usciva nel febbraio di quest'anno, questo MA per quanto riguarda gli israeliani Kashayov, attraverso la però un'etichetta britannica, la Under My Feet, con un interessante profilo Bandcamp da andarsi un po' a studiare, a vedere un po' tanti progetti decisamente sotterranei. Struttura armonica complessa, dei controtempi incredibili, una forza intrinseca in questo album, vere e proprie rivelazioni di quest'anno. Saluto in Piemonte Roberta Morghi de Lod di Radio Bandito. Mentre noi si torna in Italia e andiamo nella Dissipazio di Nicola Quiricone, altra label decisamente avanti e in auge negli ultimi tempi, tanti artisti prodotti, compreso questo Adriano Zanni, valente fotografo e musicista. Si chiama Racconti d'Osservazione e, come leggo qui, Adriano Zanni ha i dispositivi elettronici, campionamenti, field recordings, campionamenti quindi su campo come si suol dire, e fotografie. Il mastering del buon Simon Balestrazzi, pensato e immaginato muovendosi ad agio tra Ravenna, Marina Romea e Borca di Cadore tra il 2020 e il 2021. E noi ci ascoltiamo la title track, Paesaggi dimenticati.